Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo subito dai mercati. Come già avevamo avuto modo di dire venerdì, e poi Simone Spezia, che mi sostituiva ieri e l'altro ieri, un conto è la valutazione politica che si può fare di quello che è successo nel fine settimana tra venerdì e poi l'annuncio di Mario Monti sabato, domenica sui giornali. Altra cosa è dire che i mercati hanno reagito male. So che molti potevano attenderselo, che i timori erano soprattutto questi, ma già venerdì scorso invitammo alla prudenza. Ripeto, un conto è la valutazione politica che uno può fare, altra cosa è il dato di fatto dei mercati. Oggi c'è un recupero di un altro punto e 20% a Milano, che è la migliore delle borse europee. Parigi infatti invariata, Francoforte più 0,30, Londra più 0,30 anch'essa, l'America più 0,10. L'euro tra l'altro si conferma forte a quota 1,30-39. Dicevo, c'è un recupero, ma e poi vanno bene anche le banche, nel senso che la Popolare Emilia Romagna guadagna il 2,46, la Popolare Milano il 2,20, Intesa il 2%, Mediolanum il 3% e ancora Ubibanca l'1,70%. Mediaset recupera molto oggi, il 5,44%, Impregilo più 3,3%. Pirelli invece è l'unico titolo tra quelli più significativi che perde l'1% in questo momento. Questo alla luce anche di una giornata in cui, e ne parleremo nella seconda ora del programma, è andata bene l'asta dei bot italiani, per carità non saranno così significativi perché era un'asta da 6,5 miliardi, però i bot a un anno ha toccato un minimo quanto a rendimento da marzo, cioè all'1,45%, quindi vuol dire che all'Italia è costato meno indebitarsi rispetto soprattutto a novembre fu dell'1,76%, ma soprattutto la domanda è stata molto molto buona. Perché? Perché la domanda è stata due volte quasi superiore all'offerta, 6,5 miliardi offerti, 12,6 miliardi chiesti. Domani c'è un'altra asta importante di BTP a 3 anni per un importo tra i 3 e i 4 miliardi. Ancora lo spread si è mosso in conseguenza, è stabile a 330 punti, stamattina già era sceso sotto i 340, siamo a 332 punti. Ora qualcuno potrebbe obiettare e dire, beh, però prima dell'annuncio di Berlusconi, prima dell'annuncio delle dimissioni di Monti, lo spread era 300, ho capito. Però per favore, siamo seri, non iniziamo a dire che lo spread è peggiorato per 30 punti. Lo abbiamo visto restare a 380, 400 punti per molti mesi durante il governo Monti senza un grosso motivo, se non le tensioni, i dubbi sulla possibilità che l'Europa facesse alcuni accordi. Questa è la situazione di borsa e del rischio paese. A questo serve poi lo spread, a misurare questo serve lo spread. Vedo anche ancora molti sms, dichiarazioni anche su Facebook rispetto a quanto avrebbe detto ieri il Presidente del Consiglio. Lo spread non conta. No, lo spread conta nel senso che la differenza tra quanto costa noi indebitarci e quanto costa la Germania, usato come paese di riferimento, beh, è la differenza di quanto paghiamo in più. Ma se ne accorgono anche gli imprenditori e i comuni cittadini. Ma parliamo degli imprenditori per un secondo: quando vanno in banca e si vedono offrire 4, 5, 6 punti percentuali di interessi sui prestiti, e mentre il loro collega tedesco paga lo 0,5-1%, e quindi ha un vantaggio enorme se riflettiamo sul fatto che delle volte il 4-5% rappresenti l'utile aziendale. Ecco perché lo spread conta, oltre che sulle finanze pubbliche, perché poi si ripercuote nella vita di tutti i giorni di chi deve chiedere prestiti alle banche. Parleremo di questo, dicevo, e anche della situazione sulle obbligazioni. Partiremo però con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Monti oggi all'Assemblea Pubblica dell'ANFIA, e quindi l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Devo dire che parleremo anche con il presidente dell'Anfia, perché è arrivato un grido di dolore. Quest'anno siamo scesi a una produzione che sarà di pochissimo superiore alle 400.000 auto. Pensate che come produzione, non come matricolazioni, ma che come produzione la Spagna ormai produce 5 volte le auto che produce l'Italia. Non sono marchi solo spagnoli, ma questi sono i numeri. La Francia produce 4 volte in più le auto di quanto non produca l'Italia, la Germania 12 volte in più. E noi siamo scesi nell'arco di 5 anni da 900.000 auto prodotte a sole 400.000, poco più di 400.000 auto prodotte. Ci collegheremo anche con Atene, dove c'è la nostra inviata Valeria De Rosa, perché il buyback, cioè il fatto che la Grecia si stia ricomprando parte del suo debito, ha raccolto adesioni per quasi 32 miliardi, più del previsto, però Atene ha dovuto dare agli investitori un prezzo del 33,8%, sostanzialmente più alto di quanto pianificato. Alla fine il risultato è che il fondo di salvataggio europeo dovrà sborsare 1 miliardo e 300 milioni di euro in più rispetto ai 10 pianificati per aiutare Atene a ritirare quei titoli dal mercato. Nel frattempo arrivano anche nuove notizie dalla Germania, vedremo se riusciamo a approfondirle, le leggo assieme a voi, battute in questo momento dalle agenzie. Deutsche Bank, evasione, indagato anche il co-presidente Fischen, e oltre che il responsabile finanziario Stefan Kraus. Praticamente 500 uomini della polizia tributaria oggi hanno perquisito, 500 uomini, la sede della Deutsche Bank, la sede centrale a Francoforte. 5 fermi per evasione fiscale, altri 25 indagati. Deutsche Bank avrebbe nascosto perdite per 12 miliardi durante la crisi finanziaria per evitare un salvataggio da parte del governo. Questa era anche una denuncia riportata dal Financial Times in prima pagina da parte di 3 ex dipendenti della Deutsche Bank, la notizia di cui ci occupammo lo scorso 6 dicembre. Qui invece siamo al reato direttamente di evasione. 349-238-6666 per i vostri sms e poi Facebook, come sempre. Rapidamente le altre notizie in breve. Ce lo chiede, ripeto, parleremo alle 18.10 di spread, bot, di come si muovono le nostre obbligazioni. Partiamo dall'America, dove si registra sostanzialmente un'iniziativa che unisce i due più grossi finanzieri barra speculatori, chiamateli come volete, in realtà gestiscono fondi americani, Warren Buffett e George Soros. I due si sono messi assieme ad altri 20 miliardari americani, incluso il fondatore di Microsoft Bill Gates, per chiedere al Congresso, pensate un po', di pagare più tasse. Vorrebbero infatti pagare più tasse, una tassa più alta di successione che scade il prossimo 31 dicembre, e la proposta prevede una riduzione delle esenzioni a 2 milioni di dollari dagli attuali 5, e quindi abbassare la soglia delle esenzioni da 5 milioni attuali a farla scendere a 2. E poi l'innalzamento dell'aliquota massima, portandola dal 35%, come in America, a più del 45%. La cosa singolare è che questa iniziativa arriva da 20 miliardari. Voi direte, tanti soldi ce li hanno, sì, ho capito, però io non ricordo iniziative analoghe da parte dei paperoni di casa nostra. E veniamo, o meglio restiamo, sulle banche, perché oggi, al di là del caso Deutsche Bank, le autorità inglesi da un lato hanno eseguito i primi arresti nell'ambito delle indagini sulla manipolazione del Libor. Allora, il Libor è l'equivalente britannico del nostro Euribor, lo spiego in maniera un po' approssimativa, e cioè il tasso utilizzato per le banche per finanziarsi, che viene utilizzato per calcolare poi il mutuo a tasso variabile, come avviene con l'Euribor, no? Uno guarda l'Euribor e poi ci applica una parte che è di spettanza della banca. E vabbè, c'è un'inchiesta in Gran Bretagna che va avanti, partita da Barclays, ma stai coinvolgendo per esempio anche Tom Hayes, ex trader di UBS. Nel mirino sono comunque altri soggetti di UBS e di altre banche, e sono nel mirino da parte di vari paesi che ritengono, tra l'altro, Tom Hayes il coordinatore di un gruppo di dipendenti che hanno cercato di manipolare il Libor. Cos'è l'accusa? È che le banche si sono messe d'accordo per tenere questo tasso alto, artificiosamente alto, in modo da non farsi concorrenza e comunque avere anche uno sborso più alto per i clienti. E intanto nell'area euro, dove c'è l'Euribor, appunto il tasso per di riferimento interbancario, quello con cui le banche si prestano i soldi, beh, la Commissione Europea ha confermato di aver avviato delle indagini sulle modalità con cui viene fissato questo indice. Ucci ucci, sento odor di cosa? Perché lo dico? Perché secondo il Wall Street Journal nel mirino di Bruxelles ci sarebbero diversi istituti, tra cui Crédit Agricole, Société Générale, HSBC, Deutsche Bank, Barclays e UBS. Anche qui l'accusa non è così esplicita come in Gran Bretagna, ma il tentativo è di capire come viene fissato questo tasso di riferimento interbancario, che, ripeto, serve poi per calcolare la rata del mutuo a tasso variabile. Spostiamoci all'Italia, dove oggi fa sapere il direttore della direzione finanze e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro, Francesco Parlato, che gli immobili pubblici valgono attualmente 340 miliardi di euro. E poi si è saputo, sempre nell'intervento di Parlato alla Camera, che le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni in circa 7.300 società, di cui 6.000 dirette. L'80% di queste partecipazioni è detenuto dagli enti territoriali, quindi dagli enti locali. Io dico, ma non sono un po' tante 7.300 società partecipate dallo Stato o dagli enti locali, di cui appunto quasi 6.000 solo dagli enti locali, 6.000 società. Io capisco amministrare i rifiuti, ma qui stiamo parlando di 6.000 società, immaginatele distribuite in tutto il paese, dove tra l'altro sappiamo il rischio è sempre quello di mettere anche persone vicine alla politica o trombate dalla politica, e vi è anche un altro rischio sostanzialmente, che queste società, quando il pubblico si mette a fare il lavoro del privato, fa una concorrenza impropria al privato, quindi non permette nemmeno una concorrenza vera e propria sui prezzi, che andrebbe a vantaggio del cliente finale, cioè noi. Oggi, sempre in Italia, dall'Istat arriva una conferma: i mutui e i finanziamenti le altre obbligazioni con ipoteca immobiliare hanno registrato nel secondo trimestre dell'anno un vero e proprio crollo, meno 41%. Il mercato della casa, sempre nel secondo trimestre, ha fatto meno 23,6% come compravendite. Non sono i prezzi, mi raccomando, sono il numero di acquisti, quindi di vendite, compravendite. In Spagna invece il mercato immobiliare torna leggermente a crescere nel mese di ottobre, sono cresciute del 12,8% le operazioni di compravendita di immobili. E a proposito di immobili, sta scatenando un putiferio nella rete la dichiarazione dell'ex ministro Brunetta, che ha detto: non ho i soldi per pagare l'IMU, li ho dovuti chiedere alle banche. Io io le posso dare una notizia, sto pagando la seconda rata dell'IMU, i soldi non li ho, li ho dovuti chiedere a prestito in banca per la seconda, e come me penso che sono un medio reddito, un medio alto reddito, la stragrande maggioranza delle famiglie italiane. Monti, certo, su questo ha sbagliato e su questo la pagheremo cara in termini di crisi, in termini di caduta dei consumi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Diciassette e trentotto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, di Brunetta abbiamo sentito anche alcuni passaggi. Ripeto, vedo molti commenti, adesso non vorrei entrare in polemica con Brunetta, mi è sembrata un po' così improvvida la frase, visti i guadagni. Uno può avere difficoltà nella vita per tanti motivi, però insomma, quando guadagni quelle cifre forse lascialo dire agli altri, a quelli che guadagnano un po' meno. Ma invece parliamo dell'intervento di Mario Monti oggi, a cavallo tra politica e economia. È intervenuto per chiudere l'assemblea dell'ANFIA, ossia l'associazione che riunisce la filiera dell'automobile, quindi dell'automotive, tutti i vari produttori di componentistica dell'industria automobilistica. Dicevo, ha detto: attenzione, abbiate prudenza nel giudicare le riforme fatte, interrompere le riforme è peggio che non farle. Qualcuno fa notare che gli effetti di questa azione di riforma stentano a vedersi. Anzi, che la situazione è peggiorata negli ultimi mesi e quindi le riforme non hanno funzionato. A mio avviso sarebbe auspicabile una maggiore prudenza nel dare questi giudizi, questo non perché gli eventuali destinatari dei giudizi, cioè il governo e i suoi membri, possano rammaricarsene in sé, ma perché le riforme hanno bisogno di tempo per dispiegare i propri benefici, mentre i costi ad esse associate, che sono purtroppo ineludibili, sono immediatamente percepibili. E poi la stoccata al governo precedente, al governo di Berlusconi, ci ha lasciato molto da fare. Essendo i costi ben visibili e immediati e essendo i benefici differiti nel tempo, è meglio che le riforme vengano fatte quando manca un po' di tempo al prossimo test elettorale, al quale è naturale che gli esponenti politici annettano importanza, e quindi è meglio iniziare presto. In Italia ci si è trovati ad aver fatto non esattamente questo, e quindi ci si è trovati a dover, naturalmente alcune riforme nel corso degli anni sono state fatte anche da parte del governo che ha preceduto quello attuale, ma lasciando moltissimo da fare in tema di riforme, e questo moltissimo si è imbattuto nell'ultimo anno prima delle elezioni e in quel contesto di crisi economica e finanziaria che ho appena descritto. E poi sulla competitività, un'industria italiana ha particolarmente scontato il lento ma inesorabile processo di erosione della competitività che a lungo è stato sottovalutato, ha detto Monti, aggiungendo anche che comunque l'Italia la propensione all'export italiano è un elemento essenziale per il nostro tessuto produttivo, è un paese credibile, quindi la credibilità di un paese è il miglior alleato per chi deve andare sui mercati e deve esportare. L'industria italiana ha particolarmente sofferto questa situazione, scontando anche nella filiera dell'automotive gli effetti del lento ma inesorabile processo di erosione della competitività nazionale in atto da tempo, ma a lungo, a me pare, sottovalutato, e mi correggo, non inesorabile, perché può e deve essere affrontato e invertito questo processo di erosione della competitività, ma indubbiamente è in essere da molti, molti anni. L'azione di riforma principale, quasi un filo rosso nell'azione rosso, no, scegliamo un filo incolore, nell'azione del governo ha riguardato il recupero della competitività del Paese. È stato fatto anzitutto con l'attività internazionale per riaffermare l'Italia come partner credibile e affidabile, tanto nelle relazioni istituzionali quanto in quelle di business. Un'attività internazionale che è servita, speriamo, a rappresentare l'immagine di un'Italia più solida nei bilanci e sempre più pronta ad accogliere investimenti esteri, fatta di imprese che si confrontano sul mercato globale senza timori reverenziali. La propensione all'export è un orientamento essenziale del nostro tessuto produttivo. Un paese più credibile è dunque il miglior alleato di chi ha il coraggio di spingere la frontiera della propria attività oltre i confini nazionali. Poi un altro passaggio del Monti Pensiero. È chiaro che in questi giorni, prima di approvare la legge sulla stabilità, Monti farà anche delle valutazioni di carattere molto molto politico, visto che se ne sta andando e vista la sua presa di posizione molto netta sabato scorso. Dicevo, ha detto Monti, noi tutti siamo corresponsabili dell'andamento delle quotazioni, delle immagini, dell'aggettivo italiano, siamo tutti corresponsabili di quella che è l'immagine del nostro paese all'estero. Dobbiamo tutti fare quello che voi fate nelle vostre attività internazionali, cioè noi tutti siamo corresponsabili della quotazione nel mercato della credibilità e dell'immagine dell'aggettivo italiano, che è unico, indissociabile, e quindi ognuno di noi, con ogni cosa che fa, che dice, in qualsiasi tipo di attività, sposta in modo millesimale la quotazione di questo aggettivo. E credo e sono sicuro che l'Italia, per quanto riguarda la sua parte governativa, i poteri pubblici, opererà sempre di più e sempre meglio per alzare la quotazione, l'immagine e la credibilità dell'Italia, che può indubbiamente ancora migliorare. L'Italia si trova in questo e molti altri settori a affrontare problemi strutturali che hanno minato la competitività in una fase che coincide con quella di grande contrazione dei mercati e di crisi economica. Quindi due sfide in una. In più, durante un periodo in cui era anche grave l'emergenza finanziaria, e per affrontare l'emergenza finanziaria ovviamente non si può largheggiare di sostegni né fiscali né finanziari. E quindi, chiaro, come avete sentito, l'indicazione del premier, ex premier Mario Monti, non si può largheggiare in sostegni fiscali, c'è una grave emergenza finanziaria e quindi non si può largheggiare in sostegni né finanziari né fiscali. In realtà sostegni fiscali e anche finanziari aveva parlato il presidente dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, l'ANFIA, dove poi Monti ha tenuto il suo discorso conclusivo. Chiedendo infatti l'ANFIA un taglio dell'80%, se ho ben capito, nella componente A3 per le aziende ad alta intensità di energia come quelle del settore dell'automotive. E poi misure fiscali per far tornare il mercato ad almeno 2 milioni di vetture, considerato che quest'anno si andrà poco oltre le 400.000 unità. E siamo in collegamento con il presidente dell'ANFIA, Roberto Vavassori. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei e grazie per l'attenzione al nostro settore. Ah, guardi, l'attenzione la mettiamo in tutti i settori, voi siete un settore importante, voi rappresentate 270 aziende associate, praticamente tutta la filiera dell'auto. Senta Presidente, insomma, Monti ve l'ha detto poi concludendo la vostra assemblea oggi, non ci sono risorse, non si può largheggiare in sostegni fiscali. Voi cosa avete chiesto esattamente? Noi abbiamo chiesto, quanto ha ricordato lei, un taglio dell'80% della componente A3. Forse non tutti sanno che negli ultimi 3 anni per finanziare il fotovoltaico in Italia siamo passati da 11 euro al megawattora in bolletta a 42 euro in megawattora in bolletta, e quella componente di 30 euro altro non è che una tassa particolare che serve a finanziare l'investimento del fotovoltaico. Noi non stiamo ovviamente chiedendo a Monti l'impossibile, sappiamo la situazione delle casse del nostro paese. Stiamo però pensando a una rimodulazione, e devo dire che col Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo un tavolo di lavoro non solo come nostra associazione, ma insieme ad altre associazioni ad alta intensità di energia, e si tratta di rimodulare diversamente il piano tariffario. Noi dobbiamo certamente renderci conto che 6 miliardi e mezzo, a tanto ammonta il finanziamento al fotovoltaico italiano oggi, per i prossimi 20 anni, sono un carico non sostenibile per il nostro settore industriale. E sono queste le misure fiscali a cui lei ha fatto accenno, perché lei ricordava come voi pagate tra virgolette tra i 60 e i 70 miliardi di tasse, cioè questo è il vostro ammontare fiscale che date allo Stato, il 15% di quello complessivo nazionale. Per quanto riguarda l'energia, il discorso è questo: è un primo passo, si tratta di tagliare più o meno 30-35 euro, che altro non è riportare indietro nel tempo a 3 anni fa, quando comunque il gap con gli altri competitor europei c'era già in termini di maggior costo dell'energia. Oggi si è semplicemente aggravato il problema. Questo per quanto riguarda l'energia. Come misure di sostegno al mercato stiamo pensando a modellizzare, a fare delle proposte che non facciano mancare il gettito all'erario. Caso eclatante è quello del cosiddetto superbollo sulle vetture sportive. Una misura come quella, non forse propriamente preparata, ha fatto sì che noi ci siamo persi una grossa opportunità di gettito, perché in Italia queste vetture francamente sono state molto più che dimezzate come vendite nell'anno scorso, con tutto quello che di indotto significa, con tutto quello che di gettito fiscale significa, ma non solo, tutto il parco delle vetture usate che sono soggette al superbollo immediatamente hanno perso di valore di un minimo di un 25%, offrendo il destro ai grossi mercanti dell'est di portarle via a poco prezzo. Ecco, pensare meglio prima a queste misure, e ancora oggi pensiamo che si possa correggere questa distonia del superbollo, è una delle proposte che abbiamo avanzato. Ripeto, non pensando di pescare nelle tasche dello Stato, che sappiamo essere abbastanza vuote in questo momento. Ecco, voi avete notato come queste misure dovrebbero riportare il mercato ai 2 milioni di vetture l'anno. Siamo a poco più di 400.000 e voi ricordavate come l'Italia sia scivolata al 21° posto tra i paesi produttori di autoveicoli, superata anche dalla Slovacchia, dalla Thailandia, dalla Polonia, dal Messico, dall'Iran, dall'Indonesia e dalla Malesia. Noi 5 anni fa producevamo 910.000 vetture, appunto scese a poco più di 400.000 quest'anno, con un rapporto tra vetture immatricolate, vetture prodotte in loco di 3,6 contro 1, ossia il più alto rispetto ai paesi produttori. E le chiedo, sì, ma non c'è anche una scelta delle aziende produttrici da un lato, e dall'altro forse ragionare anche su modelli, penso diciamo, da un punto di vista energetico più sostenibili, non aiuterebbe l'intera filiera, l'intero settore? Allora, le rispondo in questo modo. Intanto dividendo tra mercato di domanda e mercato di produzione. Il mercato di domanda ha fatto sì che in quest'anno, nel 2012, immatricoleremo 1.400.000 vetture. Vero è che abbiamo perso 1 milione di vetture rispetto al record del 2007, e questa è la domanda. È per incentivare la domanda che abbiamo pensato di proporre correttivi fiscali, ma abbiamo anche detto che per ritornare ai 2 milioni l'ingrediente principale che oggi latita, e non solo in Italia, è la fiducia in un futuro non solo economicamente ma in generale socialmente più stabile. Questo ancora non c'è, quindi questo ingrediente non possiamo, l'ha detto anche il Premier stamattina, un ingrediente di più lungo periodo, non possiamo fabbricarlo immediatamente. Questa è la domanda. Per quanto riguarda la produzione, il taglio del costo dell'energia aiuta la produzione. È vero che i 400.000 veicoli sono un minimo storico per il nostro paese e noi crediamo che si debba recuperare nel tempo un mercato come quello dei nostri competitor europei, dei nostri amici europei come Francia e Inghilterra, che rispettivamente producono 1.700.000, 1.800.000 veicoli. È una strada lunga, una strada in controtendenza oltretutto rispetto alla sovracapacità conclamata dell'industria europea. Noi non vogliamo rinunciare a questo obiettivo, anche perché questi 10 anni, li ha dichiarati l'Unione Europea, saranno gli anni della manifattura in Europa. Non dobbiamo perdere questa occasione. Le ricordavo come noi sul fronte della produzione produciamo un quinto della Spagna, un quarto della Francia e un dodicesimo della Germania. Ma insomma, qui c'è un gruppo che si chiama Fiat, a cui alcuni attribuiscono molte responsabilità nell'avere prodotto fuori Serbia piuttosto che Polonia. Per tagliare qualunque possibilità di polemica che non è nelle nostre corde, giro lei una domanda molto semplice, ma pensiamo veramente che se ci fossero state le condizioni economicamente vantaggiose, Fiat avrebbe scelto altri paesi piuttosto che continuare a investire in Italia da investitore economico e quindi da operatore economico oculato? Io credo proprio di no. Quindi al di là di ogni polemica e di ogni scelta del passato, ci troviamo a confrontarci oggi con una situazione di fatto dalla quale dobbiamo cercare solamente di uscire e che vogliamo migliorare tutti, credo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso passiamo alla borsa, poi ci occuperemo della Grecia e poi anche dei nostri spread, o del nostro spread che è ridisceso. 349-238-6666 per i vostri sms e poi Facebook. Allora la borsa più 1,15% Milano, Parigi piatta, Francoforte più 0,30%, l'America è invariata in questo momento, Londra più 0,35%, bene quindi Milano, tra le migliori, la migliore tra le principali borse europee, bene perché lo spread, dicevamo, ma ne parleremo tra un attimo, è leggermente calato, a 300, è sceso anche sotto i 340 punti e è bene andata l'asta dei bot italiani. Poco fa lo spread era 332 punti. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Io invitavo la prudenza già venerdì, attenzione a dire le reazioni dei mercati, devo dire che molti giornali ci sono cascati, 30 punti di spread non sono una gran cosa, per quanto non facciano piacere, anche perché, ripeto, spread a 350 l'abbiamo visto per tanti mesi senza notizie interne. Questo al di là del giudizio politico che uno può dare su quello che è successo tra venerdì e sabato. Oggi bene le banche, diceva Andrea, e attesa anche per la Federal Reserve di questa sera, per la Banca Centrale Americana. Sì, certamente il movimento dello spread si riflette in maniera diretta sull'andamento dei titoli bancari, lo abbiamo visto ormai da diversi mesi e ancora di più in questo periodo, poi in particolare le banche italiane hanno beneficiato di quelle indiscrezioni sul possibile rinvio che sono arrivate per la verità dal direttore generale della Banca d'Italia Saccomanni sul possibile rinvio dell'applicazione delle nuove regole di Basilea 3 all'inizio del 2014, questo è una nota positiva per quanto riguarda le banche italiane, ne hanno risentito positivamente soprattutto le popolari, la popolare dell'Emilia Romagna ha guadagnato oltre il 3%, il Banco Popolare il 2,7%, la popolare di Milano il 2,3%, ma in generale una giornata ben indirizzata sia dall'andamento dell'operazione di riacquisto del debito greco che ha ricevuto offerte per quasi 32 miliardi, ma anche come tu ricordavi dal buon andamento dei tassi in calo nell'asta dei bot annuali italiani. Allora vediamo le ste banche: Popolare Emilia Romagna più 3,25, Mediolanum un più 3,70, Banco Popolare più 2,70, Popolare Milano più 2,34, Intesa più 2,11, UbiBanca più 2%, Monte dei Paschi più 1,60, Unicredit più 0,85%. Molto bene oggi Mediaset. Sì, Mediaset, più 5,60, sì. Mediaset sta proseguendo in quell'andamento iniziato lunedì, diciamo, con la speculazione naturalmente sul ritorno sulla scena politica di primo piano del suo fondatore Silvio Berlusconi, ma anche un recupero che gli analisti tecnici vedono come naturale, un titolo molto depresso sulla scena dell'andamento della raccolta pubblicitaria e sul fatto che chiuderà il primo bilancio della storia in rosso quest'anno molto probabilmente, e quindi Mediaset ha rivisto i massimi dalla metà di ottobre, oggi ha guadagnato il 5,6%, all'inizio della settimana ha guadagnato l'8%, ormai siamo alla soglia di 1,5 euro, non per voler fare gli analisti tecnici, ma questa sarà un po' la soglia critica. Se superata questa soglia probabilmente il titolo si rialzerà nuovamente, o vedremo domani se invece riuscirà a rompere questo tetto degli 1,5 euro. Ancora tra i titoli, oltre a Mediaset e alle banche, in pregilo, bene anche oggi, più 3,23%. Sì, in questi giorni... Qui è uscito il piano industriale anche di in pregilo. Sì, diciamo le linee guida del piano industriale sono state annunciate al mercato alla fine della scorsa settimana, qualche analista l'ha definito molto aggressivo, soprattutto per le prospettive di redistribuzione degli utili agli azionisti, quindi il pagamento di dividendi nel prossimo triennio, che sono viste come obiettivi piuttosto elevati. In questi giorni c'è stata la presentazione alle singole case d'affari del piano industriale più nei dettagli, in particolare negli incontri di ieri. È chiaro che il mercato giudica piuttosto sottovalutato questo titolo alla luce della vendita della quota in Crodovias in Sud America, ma anche alla luce dell'impegno del nuovo CDA sulla distribuzione di dividendi. Ecco perché il titolo si sta muovendo verso 3,5 euro per azione, oggi ha guadagnato oltre il 3%. Tra i titoli leggermente negativi, Pirelli meno 0,90%, Ferragamo meno 0,30%, come Saipem e Tod's. Bene invece oggi anche alcuni energetici, penso in particolar modo alla 2A più 1,85%, Enel più 1,21%, Snam più 1%, come Eni. Tra le migliori e le peggiori citiamo RG Capital meno 8,15%, Zucchi sulla risparmio meno 5,80%, i migliori invece Stefanel più 16,45%, poi il titolo del Sole 24 Ore più 9,54%, Arena più 8%, B-Team più 7%. Ricordo, prima che me lo scriviate, che il titolo del Sole 24 Ore è ancora ben al di sotto del livello del collocamento a suo tempo, come altri titoli editoriali, però lo cito sia quando è tra i migliori che quando è tra i peggiori. Grazie Andrea Fontana, che ci ricordava come le notizie principali oggi arrivino, oltre che diciamo, sul fronte nazionale, arrivino anche dalla Grecia. Eh sì, perché oggi c'era attesa per conoscere quanto la Grecia sta ricomprando del suo debito per tagliarlo. Si chiama tecnicamente buyback. È un riacquisto che serve a contribuire ad un articolato pacchetto di misure di alleggerimento del debito pubblico greco deciso dall'Eurogruppo, anche per convincere il Fondo Monetario Internazionale sulla sostenibilità dei conti della Grecia e quindi convincere l'FMI a proseguire col programma di aiuti. E domani il vertice Eurogruppo a Bruxelles dovrebbe dare via libera alla nuova tranche di aiuti alla Grecia per 34,4 miliardi di euro. C'è ad Atene la nostra inviata Valeria De Rosa. Valeria, buonasera. Buonasera a te Sebastiano e ai nostri ascoltatori. Com'è andato questo buyback per ora, le adesioni? Allora, il buyback è andato bene, è stato un successo, almeno così l'hanno descritto non solo i media della Grecia, ma anche i ministri che abbiamo incontrato in questa missione, lo stesso Samaras questa mattina. Il buyback ha oltrepassato il target, che era di 30 miliardi, si è attestato a 31,9 miliardi

un po' difficile, perché ovviamente il nostro debito pubblico è molto alto, gli interessi sono molto alti, però potrebbe essere state poste le condizioni con la riforma delle pensioni perché in futuro la dinamica del debito pubblico salga in maniera meno forte di quanto è accaduto fino ad oggi. E adesso la voglio vedere però Drusiani a commentare un flash di agenzia appena battuto. Silvio Berlusconi pochi istanti fa: se Monti guiderà la lista dei moderati, il partito dei moderati, io mi ritirerò dalla campagna. Che dice? Ha detto se Monti, perché... Sì, se la... Monti, se Monti, se Monti. Beh, io sono assolutamente favorevole, l'ho detto più volte, faccio un riferimento, se mi lascia un minuto... No, 30 secondi lascio. 30 secondi, beh, insomma, io al governo di grande coalizione sono assolutamente favorevole. Ne prendiamo atto, Drusiani, però a me sembra che ci sia un po' di confusione sotto il cielo, no? Nel senso che dopo che si sono così amabilmente spiegati alcune cose, Berlusconi e Monti, adesso Berlusconi dice se Monti guiderà i moderati, la coalizione dei moderati, io mi ritirerò. Ecco, vedi, così lo spread scende. Drusiani, grazie a Angelo Drusiani, responsabile delle gestioni per Banca Albertini. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Mi sa che siamo solo agli inizi. Radio 24, la passione si sente.